voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Giacomo Pompi, la storia dell'aceto. Quando il re di Germania si stava trasferendo verso Roma, si fermò da sua cugina che era Matilde di Canossa, la quale diede in omaggio al re di Germania una bottiglietta di questo aceto definito balsamico, perché si riteneva all'epoca che avesse anche delle proprietà curative, e il primo documento ufficiale è quello, insomma. Poi successivamente ci sono altri documenti, però proprio il primo originario risale appunto al 1046, quando questo re si fermò a dormire dalla cugina Matilde di Canossa, appunto a Canossa, che è vicino Modena. Giacomo Ponti, classe 1972, conosce bene la storia dell'aceto balsamico. È alla guida, assieme al padre Franco e allo zio Cesare, dell'azienda di famiglia, la Ponti, che produce aceto balsamico, aceto di vino, conserve vegetali sott'olio e sott'aceto, aceto di mele, per il mercato nazionale ed internazionale, e che nello scorso anno ha venduto 70 milioni di bottiglie e 19 milioni di vasetti. Giacomo Ponti rappresenta la quinta generazione della famiglia. La loro storia parte dalla provincia di Novara e dalla produzione del vino e dell'aceto. Ponti nasce nel 1867 a Sizzano, che è un piccolo paese in provincia di Novara, ai piedi della Valsese. È una data convenzionale proprio perché abbiamo trovato un documento nella parrocchia di Sizzano che attestava il matrimonio di Giovanni Ponti, mio trisavolo, con sua moglie, e c'era specificata la sua professione, era appunto produttore di vino e di aceto di vino. E per cui è una data a cui si fa risalire la fondazione dell'azienda. Poi l'azienda è prosperata attraverso il figlio di Giovanni, Antonio Biagio. Dopodiché è passata nelle mani di mio nonno, e sempre più l'azienda si è concentrata verso la produzione di aceto di vino. La produzione del vino serviva all'epoca per controbilanciare la forte stagionalità dell'aceto, che ne veniva venduto principalmente durante il periodo estivo. Dopodiché è arrivato mio nonno Guido, che ha diversificato anche l'attività, e nel 1939 ha acquistato un piccolo laboratorio a Milano, che poi per gli eventi bellici è stato trasferito poi sempre a Sizzano e successivamente a Gemme, per la produzione di conserve vegetali sott'olio e sott'aceto. Gli stabilimenti adesso sono 6, 2 a Gemme, 1 a Vignola in provincia di Modena, specializzato nella produzione dell'aceto balsamico, un altro a Dosson di Casier nel Trevigiano, e un acetificio ad Anagni, in provincia di Frosinone. L'ultima acquisizione è stata quella di Achillea, azienda che si trova ai piedi del Monviso in provincia di Cuneo e che si occupa della produzione di frutta biologica e aceto di mele biologico. È cambiata moltissimo, perché da azienda familiare, e naturalmente è sempre un'azienda familiare perché è controllata dalla mia famiglia al 100%, però si è managerializzata, abbiamo una struttura industriale che ormai vede 6 stabilimenti in giro per l'Italia, esportiamo circa il 16-18% del fatturato all'estero, per cui abbiamo delle strutture dedicate commerciali per il mercato italiano e per il mercato estero, per cui il livello di complicazione si è aumentato. La grande crescita è stata dal dopoguerra fino ai giorni nostri, grazie all'opera naturalmente di mio nonno e successivamente di mio papà e di mio zio. Noi in Italia sviluppiamo l'82-83% del fatturato, il resto è all'estero, ed esportiamo in 67 paesi. Ponti è leader di mercato nei settori delle verdure in agrodolce e dei condimenti per riso e pasta. Secondo player nel mercato dei sottoli e sottaceti, con il marchio Peperlizia, detiene il 50% delle quote di mercato dell'aceto. Per l'azienda, i maggiori spazi di sviluppo sono all'estero. L'export rappresenta il 15% del fatturato. I mercati strategici per l'azienda, come Germania, Russia, Ucraina, Stati Uniti e Francia, o i mercati acquisiti più di recente, come Olanda e Gran Bretagna. Il grande slancio della nostra azienda all'estero è appunto avvenuto grazie a un prodotto tipicamente italiano, che è l'aceto balsamico di Modena, che appunto di recente, per la tutela dalle falsificazioni, parliamo di luglio del 2009 ha ottenuto l'indicazione geografica protetta, che almeno in sede CE tutela in tutti i paesi aderenti alla CE tutela questo prodotto che era già imitato. Infatti l'80% delle nostre esportazioni è rappresentato appunto da questo prodotto. Sicuramente la grande forza che ha un marchio italiano all'estero è ovviamente l'italianità e per quanto riguarda l'aceto balsamico anche come dire, il sapore, che è un sapore globale perché piace ovunque, piace dagli Stati Uniti all'Australia, al Giappone, alla Francia, alla Germania, all'Inghilterra. È un prodotto italianissimo perché radicato sul territorio nazionale, è nato appunto a Modena e le prime tracce si hanno nel 1046, però è un sapore che incontra il gusto di consumatori di tutto il mondo, insomma. Azienda al 100% italiana, in un settore dove la tutela del marchio è importante, si pone la questione della tutela del marchio. Grossi problemi non ne abbiamo mai avuti, come so che sono avvenuti in altri settori. Sicuramente però il fatto di avere una legge europea che stabilisce canoni di produzione disciplinari e soprattutto controlli, questo dà una grande sicurezza innanzitutto al consumatore e tutela di più le aziende serie che producevano e continuano a produrre secondo i dettami della legge italiana, che adesso appunto è diventata una legge europea. Giacomo Ponti oggi riveste il ruolo di General Manager, è entrato nel direttivo 8 anni fa. Dopo aver fatto esperienza in diversi settori dell'azienda, seguire le orme del padre e del nonno, nel suo caso, non è stato un problema. Le primissime cose, devo dire che io sono sempre stato curioso, per cui durante il periodo anche infantile magari troppo, però insomma già dalle scuole medie, durante il liceo andavo comunque a vedere la fabbrica perché era un ambiente che mi affascinava e mi affascina ancora tutt'oggi. E quando era possibile seguivo mio papà in alcune trasferte. Dopodiché, durante il periodo di università, di solito dedicavo il venerdì pomeriggio o il venerdì anche mattina tutto il giorno a seguire le cose principali che succedevano in azienda, più che altro per curiosità, però comunque si respirava comunque il clima. Ufficialmente sono entrato a lavorare in azienda nel 2000 e ho cominciato nello stabilimento che abbiamo a Treviso, ad Ossan di Casera, in provincia di Treviso. E ho cominciato facendo un po' di tutto, proprio dal lavoro di fabbrica, al magazzino, alle spedizioni, alla produzione, all'imbottigliamento, fino ad arrivare a occuparmi anche della parte commerciale della parte del nord-est d'Italia, insomma. Dopodiché, dopo un anno e qualche mese, sono rientrato nella sede di Gemme, che è la sede principale, dove sono stato responsabile del più grande certificio che abbiamo, che è quello di Gemme, perché si era reso libero il posto di direzione, e ho seguito la ristrutturazione di svariati stabilimenti e poi man mano insomma mi sono occupato di estero, di marketing, un po' d'Italia, un po' di tutto, insomma, per avere una visione globale dell'azienda. In un modello di impresa familiare, la vita della famiglia si intreccia con quella dell'azienda, un rapporto attraverso le generazioni, in cui i figli prendono il testimone dai padri, un rapporto che può essere vissuto in modi diversi. Credo in maniera molto naturale per quanto mi riguarda, ma credo di poter parlare anche a nome di mio papà e di mio zio, che sono entrati, direi, in maniera molto naturale in azienda. Per quanto riguarda la mia generazione, che è la quinta, è stata una scelta spontanea e non certo, come dire, forzata da parte né di papà né da parte dello zio, ovviamente. Ci hanno sempre detto, hanno detto sempre a me e ai miei cugini, sceglietevi la vostra strada, avete l'opportunità di entrare anche in azienda se questo vi farà piacere, ma soprattutto se avrete le capacità di farlo. È il caso fortunato in cui i desideri vanno d'accordo con le possibilità. È una cosa che volevo fare fin da piccolo e sono riuscito poi a inserirmi in azienda e man mano che cresceva la mia esperienza sono aumentate anche le responsabilità e sono molto contento del lavoro che faccio. Nella tradizione dell'azienda, la formazione attraverso la pratica, per conoscere le esigenze e le necessità, ma anche gli aspetti tecnici. È una cosa fondamentale, secondo me, perché per prendere delle decisioni bisogna sapere che cosa succede poi nelle nostre aziende, che sono molto basate sul prodotto, sulla qualità del prodotto, sapere che cosa succede in fabbrica, come nasce e i problemi che possiamo avere, e anche per affrontare una discussione commerciale è fondamentale. Poi chiaramente io durante l'estate, magari un mesetto, ho sempre lavorato in azienda durante magari il liceo piuttosto che l'università. Ecco. Nello sviluppo delle aziende contano le idee e il lavoro delle persone, ma per misurare i risultati ci vogliono anche i numeri. I numeri fondamentali della mia azienda sono questi: sede appunto a Gemme in provincia di Novara, abbiamo due stabilimenti, il più grande cetificio e lo stabilimento dedicato alla produzione delle conserve vegetali, un altro vicino a Treviso, ad Osson di Casier, uno stabilimento a Vignola per la produzione di aceto balsamico per tutto il gruppo, ad Anagni un altro cetificio che è in provincia di Frosinone, e per finire l'ultima acquisizione è stata Achillea, che è una piccola azienda ai piedi del Monviso a Paesana in provincia di Cuneo, per la produzione della frutta biologica e anche di aceto di mele biologico. Una piccola realtà, ma con dei prodotti sicuramente eccellenti. Con noi lavorano 182 persone, il fatturato dell'anno scorso si è chiuso a livello consolidato a 112 milioni di euro. Abbiamo venduto l'anno scorso 70 milioni di bottiglie e 28-29 milioni di vasetti. Se gli sviluppi maggiori, come abbiamo detto, possono arrivare principalmente dall'estero, una delle esigenze più sentite è quella del supporto per lavorare nei mercati internazionali. Direi che forse con un pochino più di coordinamento, soprattutto all'estero, si potrebbero utilizzare e sfruttare meglio tutte le grandi risorse che hanno le imprese italiane, non solo la mia naturalmente, perché ritengo che con una, chiamiamola così, cabina di regia, visto che va molto di moda, ma fatta in una certa maniera, in maniera molto seria, soprattutto per quanto riguarda il comparto del food, che è quello che conosco meglio, si potrebbero ottenere migliori risultati con un'azione concertata e non magari lasciando alla singola azienda il compito di andare all'estero più o meno bene, perché poi sappiamo che ci sono tanti costi, tante complicazioni, leggi, dazi e quant'altro, insomma, per cui questo sicuramente è un punto su cui ci sono dei margini di miglioramento enormi. Avete ascoltato Voci d'Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili al sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.